Runtime Radio. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, consultarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, voce del progresso. Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Il grande reset. Il grande reset. Ah, belli de casa, bentornati qui sul grande reset. Come ogni venerdì mattina, tranne il venerdì scorso perché non mi ricordo che cosa è successo, ma non sono andato live, e qui alle ore 7 su rantemeradio.it e rantemeradio.com. Non sentite anche voi, proprio respirate a pieni polmoni, perché è un po' come la primavera al contrario, cioè noi stiamo andando verso l'autunno-inverno, ma in realtà se voi respirate sentite sicuramente un grande profumo di pace, e di pacificazione, di bontà, ma soprattutto di alleanza, di volemos bene. C'è stata una festa, ragazzi, in Israele, a Tel Aviv, c'è stata una festa, un party, dove insomma ci siamo stati anche noi, e quindi poi dopo ne parliamo di questa festa che... respirate proprio, che vi fa bene. Io purtroppo ho una narice sola perché l'altra è tappata, perché non lo so perché, ma noi ogni volta che ci svegliamo la mattina ci abbiamo sempre una narice di meno, ma queste sono questioni che sicuramente non vi interessano. Oggi avremmo dovuto fare una puntata in un certo modo, non la faremo perché la persona che da oltre una settimana sa che mi doveva mandare un contributo sul quale avrei costruito la puntata, e non me l'ha mandata perché c'è evidentemente troppo da fare, non ha 5 minuti per registrare un contenuto, e vabbè, diciamo, non vorrei fare polemiche, però insomma a volte uno ci rimane un po' così, diciamo così, dopo tanti anni di collaborazione ti aspetta che se uno ti dice che lo fa, poi non lo fa, e ci avrà ognuno i cazzi suoi, e questo non lo metto in discussione, però io tanto non voglio fare polemiche perché... stamattina c'è proprio sta cosa di pace, capito? Che adesso tutti se vanno bene, tutta una cosa incredibile. Anche i Gazawi stanno lì, festeggiano, stanno lì e se vanno tutti bene, è incredibile. Poi tra di loro se vanno bene in maniera particolare, però insomma diciamo che c'è proprio la sento, ragazzi, la pace, nonostante poi che il Nobel per la pace insomma è stato dato in maniera errata a persone che tutto sommato alla fine dovrebbero far sempre contento Orange, perché alla fine è sempre roba sua, no? Sono sempre quelle persone, quegli scagnozzi che stanno lì e che comunque in qualche modo lo rappresentano con l'antislamismo, con il razzismo, con il MAGA, con, insomma la destra americana, pure se sei del Venezuela, e anzi può essere pure un buon testa di ponte per arrivare a dire aiutami americano, porta la democrazia nel mio paese perché qui c'è la sinistra che schifo. Poi vabbè, al di là di quello che potrebbero essere i contesti che non conosciamo, o perlomeno che non ho mai approfondito più di tanto, e diciamo che questo è un periodo un po' così. È un po' un periodo così dove c'è la pace, Nobel per la pace distribuiti. Io poi invito i reali di Svezia a smetterla, cioè proprio lasciate perdere, cioè questa cosa del Nobel per la pace per un periodo di tempo tipo 25 anni, lasciatelo perdere. La fisica, l'astronomia, la medicina, le scienze, qualsiasi cosa, insomma, che esce fuori qualcosa di utile per il progresso umano, ma la pace lasciatela perdere. Mettetelo da parte per un periodo di tempo, quel premio, 25-30 anni anche, secondo me, perché vedrete, poi ne parliamo un po' in questo episodio, che insomma, sti venti di pace nascondono la puzza de merda, poi fondamentalmente, però intanto sentiamo, accontentiamoci del profumo. Nel frattempo vi faccio sentire il terzo brano in esclusiva di Falce e Macello, in esclusiva perché ancora non l'abbiamo neanche pubblicato, pensate voi. Però ci tengo, è forse il brano più commerciale, se vogliamo proprio utilizzare il termine, però è un bel brano, ci tengo, insomma, so che poi l'amico Christian, che non c'entra niente con Falce e Macello, sono persone che noi non conosciamo, non sappiamo chi sono, non sappiamo dove abitano, visto quello che è successo al direttore di Report, non si sa mai, ok? Quindi ascoltiamoci la più bella canzone. Se abbiamo saputo aspettare, scrostando il tempo dai muri, e sì che sono tempi duri, sospirando note e parole, intonando pensieri e parole, mentre ridono mogli con prole, sognando il silenzio d'un quarto, sporgendoci oltre il bordo d'un groove, studiando la pazienza d'un tarlo, che è più difficile dirlo che farlo, e se abbiamo saputo annodare fili di corrente continua, respirando polvere in sospensione, imparando a memoria la lezione del dirigibile pesante, di quelli del masso rotolante. Lady Day, may I be your man? Chiedilo con gli occhi e ti prenderò per mano. La più bella canzone di tutti i tempi per il fine settimana, del miglior gruppo hip hop italiano, di musica americana. Amici e capelli, come abbiamo perso la strada, il bello non è nella meta, dicono, ma nel viaggiare. La vita non è nei social meta, la vita è vita, zio cane, e l'importante è sapere sempre cosa cantare, dove mangiare. E se abbiamo chiuso gli occhi un momento, memento gaudere, noi speranzosi figli di Mr. Branto, noi disillusi, noi rancorosi, nella nostra follia, nella nostra pazienza, paragonabile ad una vite Parker che con Charlie condivide il nome. Ma quanto sono tristi le persone che non sanno ballare sulle note di questa canzone. La più bella canzone di tutti i tempi per il fine settimana, del miglior gruppo hip hop italiano, settimana, del miglior gruppo hip hop italiano, di musica americana. Ed eccoci qua, che bella canzone, giustamente, la più bella canzone, con Christian, che salutiamo in chat, salutiamo anche Michela, Magoslo e tutti quelli che ci stanno ovviamente ascoltando. Se non sapete chi è Mr. Brandt, un giorno ve ne parleremo, un giorno parleremo anche di Mr. Brandt, che ha rappresentato un punto focale, diciamo, anche nella mia evoluzione. Poi però purtroppo le cose sono andate diversamente da quello che ci aspettavamo noi, ma vabbè, questo succede anche abbastanza spesso. Caro Winston, anzi Winston, io purtroppo mi sbaglio sempre questa cosa, e infatti ieri ho fatto l'errore nella grafica, perché scrivo Wilston invece di Winston, ma perché proprio mi viene più naturale. Però è Winston, quindi insomma diciamo che diamo a Winston quello che merita, insomma, per quello che ne resta di lui, insomma, nel nostro immaginario, di un libro, 1984, di George Orwell, di cui avete sicuramente sentito parlare, avrete sicuramente letto. Io la prima volta che l'ho letto l'ho dovuto leggere in due volte, a distanza di 5 anni, perché la prima volta che l'ho letto mi sono fermato a 3/4 perché proprio non ero troppo giovane, forse, ma non che è proprio che mi stava turbando troppo, no? Allora ero veramente molto molto giovane, tutti parlavano di questo libro, volevo affrontare questo macigno così, anche se mi rendevo conto che poi alla fine all'inizio faceva un po' uno strano effetto, no? Questa visione un po' del socialismo visto in una certa maniera. E io subito trombone, no? Rompicoglioni. Poi però in realtà è una storia anche umana, no? All'interno di un contesto distopico, e le narrazioni distopiche, voglio dire, fanno parte della storia della letteratura molto più di quanto noi ci si immagini, anche proprio molto a ritroso nel tempo, no? Ma poi in realtà partiamo comunque anche da chi scriveva anche per e sensibilità pure sovversiva nei confronti di magari dei sistemi che c'erano precedentemente. Io parlo insomma anche del periodo del romanticismo, dell'illuminismo, anzi forse l'illuminismo è stato poi un periodo abbastanza particolare. Poi parlerò anche del discorso dell'illuminismo, perché mi ricollegherò in una prossima puntata anche una cosa che di cui voglio parlare, vabbè, insomma è inutile che mi metto adesso a parlare di questo. E comunque quando poi l'ho riletto per finirlo, l'ho finito, e poi dopo l'ho riletto altre volte, almeno un'altra due volte, proprio perché magari poi parlandone con le persone ogni volta usciva sempre un po' uno strato, no, di interpretazione. Poi ci sono stati anche due film, uno proprio diciamo ufficiale, ovviamente ce ne sono stati a decine di film, da THX a via dicendo, tutte opere che comunque hanno preso profondamente ispirazione diretta, non semplicemente ispirazione, che tante volte dice vabbè no perché c'è stata l'ispirazione, e qui più che l'ispirazione insomma era abbastanza, sebbene poi in realtà io mi sono reso conto che i primi due film di George Lucas erano dei film accademici quasi, cioè nel senso erano dei film da scuola di cinema. Cioè, comunque, il primo in particolare, non so se ve lo ricordate, American Graffiti, che non c'aveva neanche una storia, poi, in realtà. Era proprio una costruzione estetica e visiva, praticamente, di quella che era la società americana degli anni 50, no? Poi, fondamentalmente. Che, nonostante tutto, alcuni dicono che ha dato anche un po' l'input a Happy Days, ma forse perché c'era Coso lì, quello che faceva Ricky Cunningham, adesso non mi ricordo come si chiama, lui che poi è diventato un bravissimo regista tra l'altro. E, però non era un film che aveva comunque un'intenzione narrativa, era un film che aveva semplicemente, si dice che sia stato l'esame finale di laurea nella scuola di cinema di George Lucas. E THX pure, poi alla fine non era un esempio di... perché forse lui da questo punto di vista un po' peccava, magari non era un esempio di grande originalità cinematografica, però era un esempio di grande costruzione cinematografica, e quello secondo me è stata poi la forza del George Lucas, che l'ha portato poi a fare Guerre Stellari con la sua capacità di inventare visivamente le cose. Questo è comunque, non c'entra un cazzo, vabbè, comunque il film 1984 prende pari pari dal libro, anche se di un film abbastanza deludente, sebbene molto meno deludente di quanto tutti dicono. Ah, il film è brutto. Il film è brutto perché chiaramente da un'opera letteraria come quella è difficile riuscire a fare comunque un buon lavoro da un certo punto di vista. Però secondo me il film poi alla fine tutto sommato è anche abbastanza aderente. Visivamente anche molto molto ispirato dall'atmosfera, dalla cupezza, dal grigiume, no? Quindi devo dire che quando l'ho letto appunto la prima volta, o le prime volte in generale, c'era questa cosa dello schermo, del teleschermo, che poi voi vedete che cioè noi diciamo sempre ah e questa è poi la cosa che a me mi fa avvelenare, abbiamo già parlato altre volte in altre puntate, no? Si parla di questi autori, grandissimi autori, che grande visione, avevano previsto il futuro, no? Poi quando il futuro te lo trovi davanti, che è così, è dato di fatto, fingi di non riconoscerlo. Cioè, rileggi oggi 1984, oh, che grandissima visione, un giorno sarà così. Ma no, ma non è un giorno, ma era già così allora, ed è così oggi. Solo che oggi ci sono gli strumenti per farlo, no? E questa è un po' la cosa che... questa cosa del teleschermo dentro casa, che non era solo una cosa che trasmetteva, era una cosa che ti osservava. Alla fine è una metafora incredibile della televisione, che è una televisione che è dentro le case di tutti. Oggi so che tante cose sono cambiate da questo punto di vista, perché per esempio tanti come noi ce l'abbiamo la televisione dentro casa, ma ci guardiamo sì e no due o tre cose. Però il concetto di tenere la televisione accesa dentro casa, che anche se tu stai a fare le pulizie, non la senti, tutto quello che ti pare, quello che la televisione ti trasmette, alla fine ti entra nel cervello in qualche maniera, no? Quindi alla fine funziona questa cosa della visione, cioè il televisore ti trasmette a te, ma è come se ti sta osservando, ti sta controllando. Quindi poi alla fine non era tanto la metafora di George Orwell, non era poi così tanto diversa da una tecnologia che allora, nel 1948, non esisteva neanche, poi alla fine, se tu ci vai a pensare, o perlomeno magari esisteva concettualmente, scientificamente, c'erano già i primi lavori, le prime sperimentazioni, anzi, insomma, intorno agli anni 50 i televisori sono entrati nelle case della gente, però stavamo a parlare di cose che non avevano la minima possibilità di essere così pervasivi come oggi, perché penso che un televisore negli anni 50 se lo poteva permettere veramente chi ci aveva i soldi veri, insomma, no, fondamentalmente, che poi diventava anche un po' uno status symbol, perché la gente andava a casa di quello che c'era il televisore per vedere il televisore, cioè fondamentalmente. Quindi vieni a casa da me che ti aiuto a essere controllato dal sistema. Vabbè, ma comunque il povero Winston, che tutto sommato mi sono domandato tantissime volte, veramente me lo sono domandato, e penso che poi alla fine sia un po' il punto focale di tutta la questione. Se io fossi stato in Winston, come mi sarei comportato? Nel senso, mi sarei adeguato al sistema piuttosto di vivere serenamente, non avere cazzi? Perché poi io mi sono reso conto che quest'estate, un po' prima di quest'estate, durante quest'inverno, anche nei confronti di Michele, dice dobbiamo fare, dobbiamo finire, dobbiamo, manifestiamo. Dicevo vabbè, ma lascia perdere. E lì mi sono reso conto che io lì ero la parte di Winston che tutto sommato aveva detto io quasi quasi sti cazzi, no? Cioè, nel senso, alla fine, come disse James T. Kirk a Jean-Luc Picard, io ho già dato. E però questo poi alla fine diventa un po' una giustificazione. Cioè, da una parte io lo capisco, il fatto che uno dice io sono nel sistema, sono inquadrato, non devo pensare un cazzo, devo spingere sto bottone, devo fare sta cosa. Ti dicono che secondo le regole della neolingua tu devi scrivere che le parole so queste, non so quest'altre. E tu poi ti fai delle domande. Le domande, se te le fai, qualcuno si fa rodere il culo. Quindi al primo avviso dicevo, ma senti, sai che c'è? Questi si stanno a far rodere il culo. Continuiamo a andare dritti per la nostra strada. Poi dice, vabbè, ma che vita hai fatto? La vita triste, de merda, all'interno di un sistema che ti ha incolonnato. Sì, però hai campato, no? In certo senso. E dall'altra parte invece c'è Winston che a un certo punto le domande se le fatte, no? Cioè, hanno cominciato a dire, ma com'è che funziona così? Oppure, ovviamente, il romanzo fa leva sul più grande motore dell'umanità, la fregna. Cioè, lui fa leva sulla fregna perché lui dice, per incastrarlo sto Winston, alla fine gli danno la sensazione, oppure quello che stava succedendo era reale, ma poi l'altra persona magari è stata rindottrinata o chissà che fine ha fatto, adesso neanche mi ricordo, come tanto, ma no, se lo pizzico da qualche parte l'audiolibro mi sa che me lo risparazzo, perché comunque vale la pena, insomma, da questo punto di vista. E quindi va alla fine, dice vabbè, ma allora, caro Winston, che poi hai fatto una brutta fine, no? Quanto hai pensato nella tua vita di cercare di farti domande se era una cosa positiva o no, sapendo i rischi, o quanto hai pensato dice: sai che c'è, io quasi quasi mi faccio i cazzi mia. Questa è secondo me la domanda principale sulla quale dovremmo interrogarci tutti, anche perché, signori, quello che è successo nel grande party non è nient'altro che la finalizzazione del mondo di George Orwell. E niente, quel giorno Kanye West non c'aveva tanta voglia, ma in realtà penso che questo sia una sorta di intro che era attaccata all'altra traccia, però ovviamente il software di regia automatizzata non lo può sapere se non glielo dici tu, e quindi non è che mi posso mettere lì a oltre 80.000 brani a dargli tutte le, insomma, devi usare l'intelligenza lì, possibilmente artificiale, quella... Poi ve lo dico a fine puntata. Comunque, dicevo che c'è stata la festa, che è proprio stato l'apoteosi della distopia, no? Non solo si ricostruisce l'asse di Seconda Guerra Mondiale memoria, che non è lo stesso asse, però diciamo che l'Italia c'è sempre in mezzo, perché mi fa ride, perché quando si costruiscono sti assi di potere c'è sempre l'italianetto che sta là, si butta in mezzo, dice: oh, sto pure io, sto qui, che vedo la mano, che devo fare qualcosa, me fate costruire mezzo palazzo pure a me, se volete me manno 200 soldati. Io la cosa incredibile su Giorgia Meloni, perché io lo so che ci sono dei fan, io vedo su internet, anche a me mi scrivono le cose sgrammaticate, no, con l'O senza H, che ne so, le doppie, le triple, le virgole a cazzo di cane, la gente non sa scrivere, questa è la vittoria di sta gente, la gente non sa scrivere, non sa pensare, ed è questo George Orwell ai giorni d'oggi, cioè, nel senso, la neolingua oggi è la sgrammaticazione, vabbè, insomma, il linguaggio sgrammaticato è completamente insomma funzionare rispetto all'analfabetismo, che insomma è galoppa in maniera abbastanza palese, no? Però io capisco che siete stupidi, oppure non volete pensare e quindi vi fa più comodo così, oppure siete talmente fanatici da dire: ah, George, non ci tocca George. Ma io dico: porca puttana, ma non vi rendete conto che solo un anno e mezzo fa, due anni fa, questa diceva delle cose totalmente al contrario di quello che sta a fa adesso? Ma voi non vi rendete proprio conto? Mo io posso capire Salvini, no? Che possiamo dirlo, cioè, sento, a noi non ci ascolta nessuno. È scemo, poraccio, cioè, nel senso, non è colpa sua, cioè, è uscito fuori così, nel senso... non, ci hanno provato a farlo diventare, insomma. Ma poi lui, Salvini, lui non gliene frega un cazzo di niente, di nessuno, della politica, delle idee, dell'ideologia, della patria, dei poliziotti, allora non gli frega un cazzo nessuno, lui gli frega solo di infilarsi laddove può infilarsi per averci quei 10 secondi in cui qualcuno può dire: oh, bravo Salvini, che poi mi pare di aver capito dagli ultimi risultati che pure sta di ritera, caro Salvini, penso che sia guarda, io penso che hai protratto la tua vita politica ancora in altri 4-5 anni a suo tempo, quando 4-5 anni fa dovevi morire politicamente, però insomma, tutto sommato bisogna dire che la tenacia bisogna riconoscerla. Ma io dico, ma gente come Giorgia Meloni, che voi magari avete seguito dai tempi in cui faceva politica sociale, no, in qualche maniera, de destra, ma comunque faceva politica sociale, ma non vi rendete minimamente conto di che cazzo stiamo a parlare? De persone che non c'hanno proprio il mio, ma anche io, ma pure quelli là tipo Gasparri, sta gente qua, Sigai l'apartheid, oppure che ne so, laziale ebreo, romanista ebreo, queste cose qua, no? Tutta sta gente che ha utilizzato questo linguaggio fino a 15, 10, 10 anni fa, ma secondo me pure adesso lo fanno ancora, no? E poi te fanno la legge sull'antisemitismo, ma di che cazzo state a parlare? Che non si può di niente, non sugli ebrei, cioè, brutto ebreo, bruciamo gli ebrei, no, su Israele, non si può di niente su Israele, sul governo di Israele. Questo è il decreto legge che poi verrà sicuramente frullato, insomma, dalla Corte Costituzionale, sebbene non c'è più da fidarsi neanche dalla Corte Costituzionale, che questi hanno occupato qualsiasi posto. Comunque, al di là di questo, c'è stata la festa che profumava di pace, dove tutti facevano Trump, Trump, Trump, Trump, perché una cosa bisogna riconoscerla a quest'uomo, che questo ha lavorato nell'ombra con delle organizzazioni politiche e delle sette religiose, perché poi alla fine stavamo parlando di Quanon, De Maca, tutta quella roba che ha costruito praticamente questa subcultura superemazionista, come si dice? Vabbè, che stamattina non c'ho le parole, a livello bianco americano e via dicendo, perché poi dopo parliamo un attimo di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, questo periodo qui che noi non ne parliamo perché Trump è il nostro amico, guai, non se ne deve, però quello che sta succedendo oggi è la stessa cosa che succede in Iran o in altri posti per altre ragioni, cioè è uguale. Quindi non mi venite più a dire, capito? Ah, perché l'Iran, la dittatura, la religione, l'Islam, i cinesi, la dittatura, i comunisti. È uguale, ma io questo ve lo dico da 10 anni, è la stessa cosa che succede qui da noi. Uguale, perché abbiamo detto la democrazia è diventata un orpello, non esiste più. E se questi si permettono di andare lì a fare questa festa dopo aver sterminato 100.000 persone... a fare questa festa tutti Trump, e poi qualcuno ha detto ah Trump siamo dei genocidi, botta, hanno preso, hanno buttato fuori dall'aula e chissà che fine ha fatto poi quello, perché ricordiamoci anche questo, ce lo ritroviamo nelle carceri insieme ai palestinesi dove farà pure una brutta fine, perché il palestinese non è che vede, che ne so, un israeliano incarcerato per avere dissenso politico, vedono un israeliano e quindi se lo ciancicano in tutte quante le maniere, quindi pace all'anima sua, mi dispiace per lui che ha avuto il coraggio, insomma, di protestare. Trump, e fanno tutte queste feste, stavano lì e si vedono tutte queste immagini, la Meloni che parlava con Netanyahu, e tutti che ridevano, erano contenti, stavano lì, ah, la festa, e il profumo di pace, la sentite? Ah, proprio c'è una cosa, mi sono inebriato quasi dal profumo di pace, e questa è la distopia che ci hanno costruito, questa è la nuova dittatura organizzata a livello internazionale, quello che io dicevo tanti anni fa, quando dicevo ragazzi, ma non è che dietro c'è comunque un lavoro proprio globale, non è solo una cosa della destra in Italia, la destra in Ungheria, la destra in Polonia, ma qui è un problema proprio globale. Qui c'è stato un lavoro sotto, mentre che le istituzioni europee stavano lì a fare i bambacioni, a pensare alle stronzate, o adesso accanisse contro, dobbiamo fare la guerra contro l'America. Adesso c'è qualcuno che vuole in assoluto che noi dobbiamo entrare in guerra contro la Russia, perché se no si sentono male. Voi immaginate che cazzo di organizzazioni, di interessi economici stanno sotto per portare un continente ad andare a fare la guerra contro un vicino di casa che ha fatto una cazzata, sta sbagliando, deve essere punito ed è stato punito e tutto quanto. Però noi dobbiamo andare in guerra perché la gente al quale fanno fede tutti sti stronzi, compreso Trump, sono le industrie delle armi. Sono le industrie delle armi che sono ovviamente il motore economico degli Stati Uniti in questo momento. E se è il motore economico degli Stati Uniti, deve essere il motore economico di tutti, perché gli Stati Uniti sono in default, stanno in merda, cioè non c'hanno una lira, stanno con le pezze al culo. Cioè, quello è il problema. Quindi quelli gli fanno la festa, Trump, tutti che ridono, sono tutti contenti, stanno là, questo odore di nuovo asse, di organizzazione. E questo quando, 2 giorni dopo, le manifestazioni in cui milioni di persone in tutta Europa e forse anche in tutto il mondo sono scese in piazza per dire questa è una merda. Quindi questi si sono sbrigati per fare immediatamente la contronarrazione per tutti quelli di cui vi ho parlato nella puntata scorsa, ossia quelli che stanno in mezzo, quelli che non sono abbastanza informati per averci un'opinione, che non so né a favore di uno né a favore dell'altro, e che comunque vedendo tutto questo grande movimento, questo grande spinta di protesta, incomincia a dire oh, ma forse magari c'hanno ragione, è questo che c'hanno ragione, regà, non va bene, costruiamo immediatamente la contronarrazione, ci incontriamo tutti a Tel Aviv e facciamo una grande festa per far vedere che siamo noi la pace, no questi brutti stronzi che vanno in piazza e distruggono il secchio della monnezza giallo a Milano. E ragazzi, la situazione stavolta è veramente brutta. Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi, scopri il nostro palinsesto su www.runtimeradio.it. Mi raccomando, seguite runtimeradio.it e tutto il resto. Poi presto aggiorneremo anche il sito nuovamente, sono un po' in ritardo su tante cose, però vabbè, poi piano piano ci aggiusteremo. In realtà in questo periodo dovrei dedicarmi anima e corpo a cose molto più importanti, quindi insomma farò ancora più ritardo, abbiate pazienza, chi se ne frega, no? Tanto alla fine voi a Runtime Radio gli volete bene lo stesso. E quello che sta succedendo in America, allora innanzitutto questa settimana ho fatto una bella panoramica. Voi sapete che ogni tanto io faccio questa full immersion in quelle che sono le testate e gli organi di informazione della sinistra americana, che noi nell'immaginario del periodo della guerra fredda ovviamente diciamo siamo abituati a non associare un pensiero comunista, socialista o socialdemocratico all'interno di quello che è il contesto e il tessuto americano. In realtà questa repulsione, questo atteggiamento refrattario nei confronti di determinate posizioni anche ideologiche in America è caduto, non c'è più questa visione post guerra fredda o guerra fredda, e quindi diciamo che sempre tra la Cortes e ovviamente anche altri soggetti, insomma, diciamo c'è questa grossa crescita costante dei movimenti di sinistra e dell'informazione sinistra americana, che a volte fa anche un po' specie, perché da una parte c'è la sinistra, quella un po' più quella che noi considereremo una sinistra istituzionale, tipo comunque i socialisti socialdemocratici, che hanno una visione molto critica nei confronti proprio del sistema americano e soprattutto di quelle che sono le politiche in questo momento, no? Che sono delle cose anche abbastanza drammatiche, poi fondamentalmente se andiamo a vedere, perché non solo Trump dall'inizio del suo mandato ha già fatto 140 ordini esecutivi, e che a volte 140 ordini esecutivi sono l'intero blocco di ordini esecutivi che fa un presidente americano nell'arco del suo mandato, ma che ovviamente sono tutti ordini, la maggior parte sono tutti ordini esecutivi che per la metà hanno completamente smantellato lo Stato federale. E laddove non l'hanno smantellato, ovviamente sono stati licenziamenti, sono stati uomini messi ai posti, a determinati posti e via dicendo. Quindi non c'è più una struttura democratica sufficiente per poter considerare gli Stati Uniti una democrazia, tant'è che anche fondazioni che si occupano dell'osservatorio democratico a livello globale hanno fatto precipitare gli Stati Uniti, penso insomma tipo al 90° posto rispetto a una volta che erano insomma tra i primi, insomma diciamo primeggiavano da un certo punto di vista, anche se per me è sempre stata una stronzata, però questo è un'altra visione del mondo e della situazione. E questa situazione, ovviamente lo smantellamento dello Stato federale, è veramente uno dei motivi più preoccupanti, ma soprattutto perché la politica aggressiva di questo mandato presidenziale è proprio un'azione politica e giudiziaria nei confronti di tutti quelli che sono gli oppositori, che praticamente o gli sparano o li fanno sparire oppure li incriminano, perché ovviamente l'FBI e la CIA in questo momento sono diventati una sorta di braccio armato, no? Di Trump e della sua istituzione. Ma questo è un discorso che viene visto in senso generale non solo dai socialisti ma anche dai liberali, quindi insomma diciamo da una realtà politica che ha una visione diversa ovviamente dal socialismo, dalla socialdemocrazia. Però questo sono dati di fatto, insomma si vedono proprio determinazioni che sono proprio degli attacchi politici, quindi adesso in questo momento diciamo c'è anche un po' di preoccupazione, no? Nel mettersi contro determinati sistemi, no? Abbiamo visto anche che si possono permettere ovviamente di decidere della vita anche di persone che non sono americane, come abbiamo visto è successo in Italia, ma vabbè, ne parleremo magari una volta in maniera più approfondita, magari con chi ha seguito meglio un po' la faccenda. Ma chiaramente c'è proprio una maggiore libertà senza considerare ovviamente lo spazio totale ai lobbisti del carbone, che ci porta indietro dei 30 anni praticamente da questo punto di vista, se non dei 40 anni, ma c'è anche ovviamente mano libera anche alla polizia, ma soprattutto proprio azioni politiche ben precise, che sono quelle delle deportazioni, delle deportazioni di cui il governo Trump non si nasconde, anzi le vede proprio come un vanto, cioè loro sono veramente sono orgogliosi di queste deportazioni che stanno facendo, che ovviamente sono deportazioni violente come ogni deportazione, perché non si guarda in faccia niente, donne, bambini e via dicendo. Quindi se voi considerate che noi siamo cresciuti, perlomeno io degli anni 70, che sono nato negli anni 70, i miei genitori che magari sono nati negli anni 40, tutta due generazioni sono cresciute con la visione degli Stati Uniti come questo baluardo di libertà. Noi sapevamo per il 50% erano stronzate, dall'altra per il 50% c'era comunque una cultura liberale americana che era sempre abbastanza importante. E, insomma, diciamo che c'è proprio questa visione oggi di un paese che ha fatto un passaggio indietro impressionante, senza considerare ovviamente il sostegno e il supporto alle armi, ma ecco questa cosa appunto della stampa di sinistra americana che, vabbè, da una parte ovviamente inneggia a concetti che noi magari abbiamo conosciuto di più, insomma, negli anni 70-80, l'imperialismo, l'anticapitalismo, tutta una serie di cose che fa ride, no? Se pensate che gli americani hanno delle testate intere che parlano di anticapitalismo, di sovversione del sistema, dell'imperialismo americano, cioè fa un po' ride questa cosa, però li capisco, cioè nel senso, da una parte, no, dall'altra ovviamente c'è la sinistra non moderata, ma quella che comunque vede il sistema in una determinata maniera e che sta ovviamente attirando tanti giovani. E ne avevamo già parlato anche uno o due anni fa di questa cosa, ma molto probabilmente le cose sono cambiate, sono cresciute da questo punto di vista, e forse comunque in qualche maniera, se c'è un minimo di speranza in America, forse un po' quell'alleanza tra socialdemocrazia e liberali, che forse possono in qualche maniera portare avanti determinati concetti, soprattutto all'interno del Partito Democratico, che pur avendo tutti quanti i loro partiti, che in America ci sono i partiti, non è che esistono solo due partiti, aderiscono comunque all'interno del Partito Democratico, che poi alla fine, come il Partito Repubblicano, rappresentano una sorta di aggregazione di quelle che sono magari le volontà più progressiste. È ovvio che all'interno delle primarie vincono sempre quei soggetti sempre più aderenti al sistema, no? E quindi abbiamo visto, insomma, presidenti che, dai quali ci aspettavamo, insomma, un futuro progressista, poi in realtà non, insomma, le cose non sono andate esattamente per non parlare di Biden, che vabbè, cioè, nel senso, secondo me era meglio perdere quelle elezioni piuttosto che quest'altra, insomma, in un momento storico veramente particolare. Comunque, vabbè, c'è grossa preoccupazione per le deportazioni, per la violenza, l'inquisizione proprio, e per la limitazione proprio delle libertà anche a livello espressivo. E adesso ovviamente anche quelli che sono più preposti, insomma, diciamo, ad avere una posizione di contrasto, d'opposizione, ci devono avere le spalle belle forti, perché in America oggi fare opposizione è veramente duro, e in questo momento soprattutto che c'è una grossa violenza politica che ci riporta proprio indietro di tantissimi e tantissimi anni. E in più molte testate, sia liberal che socialdemocratiche, sostengono che la Cina è seriamente preoccupata e si sta diciamo attrezzando per un potenziale imminente attacco degli Stati Uniti, non soltanto dal punto di vista commerciale, ma che comunque questo atteggiamento dell'amministrazione Trump porterà prima o poi a uno scontro di qualche tipo, soprattutto perché pare che sia imminente un ulteriore dazio del 100% sui prodotti cinesi. Poi questa cosa dei dazi, che ci riporta all'epoca del Medioevo, perché qui stiamo parlando del Medioevo, voi siete tutti, io, quelli che sono contro, bravo, non si rendono veramente conto, ma perché la gente non conosce la storia, non sa, non cazzo, tutti ignoranti. Comunque, al di là di questo, diciamo, se tu metti un dazio fiscale del 100% sui prodotti di importazione cinese, è chiaro che tu stai a fare una dichiarazione di guerra, cioè stai a dire, io te sto a menà, però faccio quello che non te sto a menà, un po', diciamo, per scimmiottare la situazione. Insomma, vabbè ragazzi, la situazione è un po' quella che è. Speriamo, insomma, che prima o poi questo sistema cada in qualche maniera e che oggi tutte quelle persone che sono state in piazza non sentano esaurita questa mossa, ma che si stiano veramente organizzando per fare qualcosa ancora di più, perché se noi abbiamo dato una risposta e loro hanno voluto fare subito la contronarrazione, noi dobbiamo fare la contronarrazione. Fa veramente rumore andare casa per casa, perché è inutile scendere in 2, 3, 4 milioni di persone in piazza se poi non andate a votare. È vero che non ci avete le alternative, ma ragazzi, c'è un momento in cui bisogna dire, oh, mi fai schifo, ma devo votare a te perché sennò l'alternativa è peggio. Vabbè, Jackson Browne qui a sta canzone ci ha già rotto un po' i ball, ma soprattutto perché mi sono accorto che sono i 50 e che alla fine la vita deve andare avanti, bisogna cominciare a prepararsi, pensare al lavoro, finire un progetto. Ragazzi, vi posso dire una cosa, ce l'ho fatta, poi ne parleremo accuratamente a tempo debito, però voglio dirvi che ce l'ho fatta. È stato incredibile, è stato un percorso lungo, tantissimi anni lungo, no, anni no, ma insomma mesi di sforzo, di frustrazione, di quasi sull'orlo dell'abisso, e ogni volta quando arrivavo sull'orlo dell'abisso e poi riuscivo a debuggare tutto, a risolvere tutti quanti i problemi, ero l'uomo più felice del mondo, ma l'abisso, non sapevo che l'abisso successivo sarebbe stato peggiore. E due giorni fa, a 10 metri dall'orizzonte degli eventi, di un buco nero che avrebbe risucchiato tutto e avrebbe portato alla cancellazione del progetto, perché a un certo punto basta, e ci ho avuto l'illuminazione, e in due giorni, e non dico una cazzata, in due giorni ho ricostruito l'intero progetto del mio videogioco, ovviamente grazie al fatto che avevo un game developer document iper dettagliato, e ho finito, ragazzi, ce l'ho fatta. The Saved Place Chronicles, The Echo of the Voyager è pronto. Adesso piccole rifiniture, piccoli refactoring, devo sistemare la grafica perché il tileset fa veramente cagare e poi è fatto. Voi direte, ma quando lo giocherete, perché lo giocherete, pezzi di merda, direte, tutti questi mesi per sta cagata. Il livello di complessità che c'è dietro questo progetto, che verrà rilasciato come versione 1.0, ma che in realtà piano piano nei mesi, con molta relax, usciranno aggiornamenti, rifiniture, miglioramenti di determinate cose che adesso sono molto, non dico basiche, però insomma, diciamo, l'idea è che questo è un prototipo, non è un vero e proprio videogioco, e per essere un prototipo può essere preso in blocco e per essere utilizzato per sviluppare un'altra cosa, un altro gioco, un'altra storia, oppure può essere piano piano migliorato nel tempo, considerandolo come una sorta di versione in accesso anticipato, dove mentre voi giocate, fate beta testing e magari mi dite, mi suggerite, verrà migliorato, perfezionato il crafting, verranno migliorati l'utilizzo degli oggetti, verranno migliorati tutta una serie di cose. Ma avevo detto che non ne avrei parlato e ne avremmo parlato a tempo debito, quindi adesso basta. Volevo solo salutarvi, vi ricordo che è uscito Snap questa mattina e vi è uscito il nuovo episodio di Armonia,